e buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Might FM. Chi vi parla dagli studi riscaldati di Radio Kairos presso il TPO di Bologna in via Casarini 17/5 è Claudia Mighty Mau, come sempre, con un episodio insomma un po' ricorrente, un classico per tutti gli aficionados. Non sarà una novità, ma magari le canzoni che ascolteremo oggi lo saranno, ovvero una puntata dedicata alle cover, rifacimenti, rework, riletture, rielaborazioni, insomma tutto quello che la trasformazione di un pezzo di artisti o gruppi da parte di altri artisti o gruppi spesso emergenti, ma anche appunto ci sono anche nella storia fior fiore di cover fatte da grandissimi nomi per pezzi altrettanto grandi e famosi che sono hanno assurdo insomma un'importanza, anzi forse versioni più belle a volte delle originali. Ma come noi abbiamo scritto nella nostra presentazione, l'ispirazione non molto originale è stato cover, nel senso di copertura, infatti appunto dicevo le canzoni rifatte come se si ammantassero di nuova veste, e questo perché appunto l'altro significato è di copertura per il freddo, cover up, copriti. E siccome c'è stato un calo repentino delle temperature, siamo qui appunto a fare questa puntata. L'ultima fu fatta nella scorsa stagione a gennaio, abbiamo un po' anticipato meno di un anno insomma di programmazione radiofonica, e iniziamo con un pezzo delle 2:54, nel senso di orario 2:54, un gruppetto formato fondamentalmente da due sorelle irlandesi poi cresciute a Bristol e a Londra, le sorelle Colette e Anna Thurlow, che ogni tanto si fanno sentire, hanno fatto delle cose carine, non hanno mai veramente ancora sfondato, e nel 2012 in settembre hanno fatto questa cover di Killer, grande successo del 1990 del produttore e musicista elettronico Adamski, ovvero Adam Paul Tinley, che ricordiamo poi che è un grande successo in Italia poi tanti anni dopo con In The City, ma che appunto nel 90 si avvalse della collaborazione alla voce di Seal, e Adamski che ancora quest'anno ha fatto un nuovo album dal titolo Revolt, che bisogna insomma ascoltare, controllare, e queste appunto sono le 2:54. Passaggio un po' alla Forest. Due sorelle non solitari, visto che suonano insieme, 2:54, un po' grunge, un po' shoegaze, un po' heavy, un po' psychedelic e un po' dark, direi, un po' Cure, un po' garbage. Vabbè, l'avete riconosciuto subito, Summertime Sadness della Lana Del Rey, fatta da un personaggio emergente, abbastanza un po' controverso, se questi diss, queste liti che fanno insomma i musicisti della scena rapper. Anche lei insomma si è venuta fuori e subito insomma si è distinta nelle litigate via Twitter. Si chiama Angel Hayes, io l'ho scoperta con un bellissimo pezzo del titolo Echelon, e questo appunto è Summertime Sadness della Lana Del Rey, che Angel ha fatto nel novembre 2013, mentre sappiamo benissimo che Summertime Sadness è uno dei grandi successi di un album di enorme successo, Born to Die, del 2012, di cui ricordiamo della title track la bellissima cover che passammo qui a Mighty FM, fatta da Patrick Wolf. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got that summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh. I'm feeling electric tonight, cruising down the coast, going by 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me. The stars miss the sun in the morning sky. Late is better than ever. Even if you're gone, I'm gonna try. Try. I got that summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Questo attacco quasi sembrava applausi di Lady Gaga, questa versione di Angel Hayes, che invece nel ritornello, con questa voce così bella piena, assume un andamento rock abbastanza classico. Le cover a volte sono inutili, a volte sono orrende, a volte hanno senso se danno comunque un feel, una sensazione diversa, se un artista riesce a farla propria applicando senza suonare male, perché a volte sì, è bello un suono completamente diverso, scoprire come una canzone venga trasformata e essere fatta ed eseguita con uno stile completamente diverso, sì, è un altro pezzo, però mantiene ancora la sua identità. E stiamo andando avanti. Questo qui era un pezzo che avevo considerato di mettere nella puntata precedente che abbiamo fatto a gennaio. Perché? Perché c'erano molte cover di questo pezzo, perché in molti hanno fatto la cover di questo pezzo, tra cui Father John Misty, che non abbiamo scelto. Abbiamo scelto questa versione di un gruppo pressoché sconosciuto, che dicevo, in occasione del ventennale della morte di Kurt Cobain, molti musicisti hanno fatto una cover di questo pezzo, e questi che abbiamo scelto sono i Caged Animals. I wish I could eat your cancer when you turn black. Priceless advice. Hey, wait, I've got a new complaint. Forever in debt to your priceless advice. Hey, wait, se bene la giusta posizione dei pezzi sia stata casuale, a quanto ne so, è stata proprio la versione di Lana Del Rey di R-Shaped Box che noi abbiamo ascoltato nell'ultima puntata dedicata alle cover, mentre questi Caged Animals sono una band americana, un quintetto di base a Brooklyn guidato da Vincent Cacchione, e un altro dei membri è Talia Rose Cacchione, per questo singolo del 93 famosissimo, poi contenuto in Utero, di cui io personalmente ho il CD singolo che contiene anche un bel pezzo scritto invece dal solo Dave Grohl. Urlata e disperata come il ritornello di questo pezzo diventa invece così scarno, questo incedere molto elegante, vagamente minaccioso, seducente e sì, essenziale. Caged Animals. Questi synth così sinuosi, appunto. La maggior parte delle volte queste cover sono del tipo dei one shot, dei pezzi che gli artisti postano sui loro siti o canali YouTube, molto spesso canali SoundCloud, altre volte sono dei pezzi che vengono proprio rifatti e messi come una traccia di un album, come hanno fatto per esempio anche London Grammar ultimamente con il pezzo di Kavinsky. E così fecero nel 2007 i Chromatics di Johnny Jewel, che nel 2007 il loro album Night Drive, appunto, inserirono questa cover di Kate Bush, Running Up the Hill, uno dei miei pezzi preferiti che abbiamo sentito già qui a Mighty FM in versione originale ed anche in versione coverata dai Placebo. Mentre i Chromatics sono dedicati altre volte a delle cover che abbiamo sentito sempre qui in trasmissione, come Animal Nature Aid dei Suede e Ceremony dei New Order. Ma questa è Kate Bush riletta dai Chromatics. Change. certo la delivery vocale della la voce dei Chromatics non è esattamente uguale a quella di Kate Bush, ma il fascino della musica dei Chromatics risiede forse anche in questa voce un po' imprecisa. Questa è la voce di Ruth Radelet, ma sappiamo anche il progetto parallelo di Johnny Jewel, ovvero Glass Candy, anche la voce di Ida No non è esattamente tagliata per il canto. Lasciamo lo spazio a due cover fatte dagli stessi o stessa band, che si è abbastanza distinta per le loro cover. Parliamo dei Churches, il trio glasvegiano che tanto ci piace, anche se insomma l'ultimo album Every Open Eye non l'abbiamo ancora ascoltato bene, però i primi pezzi sembravano un po' troppo simili al fortunatissimo album d'esordio, ma niente, ce l'ascoltiamo invece come facitori di cover, per cui invece si sono distinti a partire da questa Cry Me a River di Justin Timberlake, che hanno eseguito nel febbraio 2015 per la trasmissione BBC Radio 1 Live Lounge, e il pezzo originariamente del 2002 è contenuto nel fortunatissimo album di Justin Justified. Some things are better left unsaid, but it wasn't like you only talked to him, and you know it. All of these things people told me keep messing with my head. You should have picked honesty, then you may not have blown it. You don't have to say what you did. You and me, no chance with me. I don't wanna make you sad about it. You told me you love me, why did you leave me all alone? You tell me you need me when you call me on the phone. A girl I refuse, you must have me confused with some other guy. Your bridges were burned and now it's your turn to cry. Ecco, per esempio i Churches riescono a fare propria, il loro stile di synth pop, riescono a fare propria ogni canzone che rifanno, sembra una canzone loro, dei Churches. Peccato che dopo appunto fanno un po' di canzoni ripetitive invece delle loro proprie, ma questa cover di Cry Me a River ci piace per il tocco Churches, non certo perché fossimo perlomeno ai tempi delle estimatrici dell'originale, insomma. Adesso è il tuo turno di piangere, vai, piangimi un fiume, dai, fammi vedere quanto piangi per me. Ed è bello, ho notato in questo momento che sempre più spesso quando si fanno delle cover, l'ha cantato un uomo, parla al maschile, al femminile, non si va stupidamente come invece succede in Italia a cambiare i pronomi o le vocali. E questa appunto è un'altra cover dei Churches, della fortunatissima Falling, delle sorelle urlatrici Haim. Questo fatto questa cover nel luglio 2013, sempre per il BBC Radio 1 Live Lounge, quando il singolo Falling era già uscito, quando invece l'album Days Are Gone sarebbe uscito poco dopo di questa cover Falling. Così percussiva e saltellante mi rende questa versione dei Churches infinitamente più gradevole della versione originale delle Haim, che non ho mai amato moltissimo, anche se questa seconda voce, immagino, di Martin Doherty, altro membro dei Churches insieme a Lauren Mayberry e Ian Cook, a volte stona un po', comunque ci piace molto. E vabbè, insomma, visto che di cover ce ne sono tante, le abbiamo proprio chiamate, perché anche le Haim, le tre sorellone, soprattutto la bassista, che vederla dal vivo fa veramente paura, hanno fatto una cover estiva, fatti così un po' languida e forse ancora più rallentata di quanto non sia già lento il pezzo originale, ovvero la bellissima Cause I'm a Man di Tame Impala, contenuta nel disco di quest'anno, il bellissimo Currents, che lei appunto hanno fatto ad agosto. Mark per confermare il fatto che non ha senso cambiare nomi, pronomi, eccetera. Le tre sorellone Haim, ovvero Este, Danielle e Alana, non sono fatti problemi a fare una canzone che dice cosa ma man woman. Pezzo che ci piace molto è che, appunto, per chi non lo sapesse, non deve essere interpretato da serie oh sono un uomo, cazzo vuoi, ma proprio donna, sono un uomo, quindi devi capire che io non potrò mai essere alla tua altezza, riuscire a fare le cose che riesci a fare tu, perché sono semplicemente un uomo, un maschio. Così sfumano le Haim, come insomma spesso succede, le versioni che ascoltiamo delle canzoni sono un po' tagliuzzate verso la fine, ma le ascoltiamo abbastanza per dare un'idea della sostanza, della sensazione, del contenuto di questi pezzi. E siccome abbiamo molta fantasia, abbiamo messo accanto Churches che fanno le Haim che fanno i Tame Impala, un'altra cover dei Tame Impala, la bellissima Feels Like We Only Go Backwards, invece del, sempre i Tame Impala, il gruppo capitanato da Kevin Parker, praticamente insomma fa tutto lui e gli altri suonano, contenuto invece in L'Honorism del 2012. Gruppo di base a Perth, come spesso ho detto, nessuno come gli australiani e anche i neozelandesi riesce a fare musica psichedelica in tempi contemporanei come loro. E chi ha fatto questa cover sono le sei Lulu, sorelle gemelle australo-svedesi, papà australiano, mamma svedese. Hanno fatto tanti singoli e anche un album, anche quest'anno. Like We Only Go Backwards, bellissimo pezzo dei Tame Impala, di quelli che non vorresti finissero mai, rifatto dalle sorelle australo-svedesi, dicevamo, Miranda, Anna e Electra June, non so cos'è che ho scritto, Kilby Jansson, sei Lulu. fatto una versione dream pop di Tutto Rispetto. E adesso passiamo ad un altro duo, però viennese, lei lui. Si tratta degli HVOB, che sta per Her Voice Over Boys, ci fa simpatia. L'abbiamo scoperto pochi giorni fa per un remix di un loro pezzo da parte dell'italianissimo Manfredi Romano, ovvero DJ Tennis. Un pezzo tratto dal loro ultimo album Trialogue. Questo invece è una cover che hanno inserito appunto nel loro album omonimo di un paio d'anni fa, il 2013. Questo duo formato da Anna Müller e Paul Wallner. Questa è Always Like This dei Bombay Bicycle Club. OB nella loro versione di Always Like This, Bombay Bicycle Club, un pezzo invece del 2009 inserito nel loro album I Had the Blues But I Shook Them Loose, gruppo guidato da Jack Stateman, in attività dal 2005, ma che solo nel 2014 potremmo dire hanno raggiunto un bel successo con So Long, See You Tomorrow, soprattutto con il pezzo Carry Me. Anche questa qui è una versione super sfumata, raggiunge quasi 6 minuti mi pare, ma appunto l'abbandoniamo per passare ad un pezzo da 90 della musica contemporanea, sia nel versante più alto, e lo dimostra questa bellissima versione al pianoforte di questo pezzo degli Essayer, I Remember, e chi la esegue e che appunto si distingue nell'ambito del panorama musicale contemporaneo anche per l'altro côté, quello più elettronico che ci fa anche ballare, è John Hopkins. Thank you. Lover degli Essayer, contenuto in un album molto amato, Hot Blood, del 2010, che conteneva Mad the Red, conteneva One, Anne Boleyn Alp. E questa versione è stata fatta da John Hopkins per la compilation da lui curata Late Night Tales, che si chiamava prima Another Late Night, e che prevede sempre che il curatore, appunto, faccia una selezione della musica che ha piacere di ascoltare a casa propria a tarda notte, ma che faccia anche una cover di un pezzo. E questa è stata la scelta di John Hopkins. Tenere l'atmosfera e non arrestare la lacrimuccia che potrebbe essere spuntata dagli occhi, far sì che scenda. Abbiamo scelto questa bellissima The Sound of Silence, rifatta in modo riconoscibile, inconfondibile, da un altro genio della musica contemporanea anglosassone, vero James Blake. Tell my color to the cold and loud. When my eyes are stuck by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs, their voices never shared. And no one there to stir the sound. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fall. Intensissima, struggente versione di The Sound of Silence, famosissimo successo 65-66 di Simon & Garfunkel, rifatta da James Blake con una trasmissione sempre della BBC Radio 1, 1-800 Dinosaur Show, all'inizio del ottobre 2015, è dedicata ad un amico morto a Capodanno. E un altro collegamento molto logico è una cover di un pezzo di James Blake, la meravigliosa Retrograde, contenuta in Overgrown del 2013, vincitore Mercury Prize. Oh, e la voce inconfondibile, e questa R moscia un po' fastidiosa è quella di Lord, di cui abbiamo parlato molto anche nella scorsa puntata dedicata ai Magical Clouds. Questa versione, sempre fatta dal vivo per un programma radio della radio australiana Trouble J, e immagino Like a Version, che è appunto famosa per ospitare artisti di tutto il mondo che fanno delle bellissime cover, e questa è stata fatta da Lord nel febbraio del 2014. Per esempio, questa cover non si discosta dall'originale musicalmente, ma viene resa particolare dalla voce, che è un po' diversa di quella di James Blake e che è particolarissima e riconoscibilissima come quella della giovane, ancora giovane Lord. E passiamo ad un'altra band australiana, ovvero il progetto in realtà di un musicista di Brisbane, Danny Harley, è una cover di un pezzo di Lord, tutto torna, Tennis Court. Una cover quasi immediata, fatta 3 mesi dopo l'uscita del pezzo come singolo, giugno 2013, questa rifatta a settembre, poi sappiamo contenuta nel fortunatissimo album Pure Heroine di Lord. Invece questo progetto musicale australiano si chiama TKST, ovvero The Kite String Tangle, ovvero il groviglio del filo dell'aquilone. Thank you. canzone così un po' malinconica, e anche qui ovviamente non è che si è rinunciato a fare questa cover, perché dice I'll be a beauty queen. Molto bella questa versione di The Kite String Tango, ovvero Danny Harley da Brisbane. Per rimanere sempre nell'ambito di idoli delle ragazzine più o meno alternative, passiamo ai Silver Swans, che abbiamo già sentito a Might FM per una cover dei National, Anyone's Ghost. Si tratta di un duo di San Francisco, Anne and John, che nell'ottobre 2013, quindi 2 mesi dopo l'uscita, hanno fatto una cover di Wrecking Ball di Miley Cyrus, fatta un po' alla Lord. Quindi una cover fatta ancora prima del successo planetario che ha avuto questo pezzo, perché ovviamente si poteva prevedere che avrebbe avuto grande successo, però magari dopo 2 mesi non aveva ancora avuto quegli 800 milioni di visualizzazioni su YouTube, e magari non per merito della canzone, ma per merito della posa di Miley nel video, pezzo poi contenuto nell'album Banger. Finisce così questa bellissima versione, secondo me, di Wrecking Ball, che me la rende ovviamente più gradita dell'originale. The Silver Swans, così bella, compatta, decisa, forte, però con questa voce così evocativa, così delicata, come delicata è la voce delle Sister Crayon. fanno questa versione, assolutamente, spoglia di I Know Places di Lick Lee. Duo di Sacramento che sembrano delle due super dykes. Terra Lopez e Dani Fernandez hanno fatto due album, uno nel 2011 e uno nel 2015, e molte cover, e questa appunto I Know Places fatta un paio d'anni fa del pezzo contenuto in Wounded Rhymes di Lick Lee 2011. Arrivano cuoricini dalla rete per questa versione di I Know Places delle Sister Crayon. Vogliamo dire che ci piace questa versione un po' campfire, da suonare davanti a un fuoco nel West. E da Sacramento rimaniamo casualmente nello stesso stato, la California, per passare a Los Angeles. Città dei Local Natives, autori originali, era il primo pezzo d'apertura del bellissimo Gorilla Manor, questa White Eyes. Stranamente Gorilla Manor uscì nel novembre 2009 in Europa e nel febbraio 2010 negli Stati Uniti. E questa versione sintetica è stata fatta da un duo che invece sta dall'altra parte, a Brooklyn. Si chiamano Temper, duo formato da Aaron e John, o così ci dice la loro pagina Facebook. Between the folds of a tree trunk. Could it ever be on earth as it is in heaven? Wide Eyes, pezzo d'apertura di Gorilla Manor, biglietto da visita bellissimo per un album che in ogni pezzo che lo compone non era da meno, e che secondo me, insomma, non si è ripetuta la stessa magia con l'album successivo dei Local Natives. È bella però questa versione, come dicevo, sintetica dei Temper, duo di Brooklyn. E rimaniamo sempre nell'ambito del synth pop, rifatto in chiave folk acustica, get a little closer, let it fold, caught up in my sternum and pull my little ribs around you, the rungs of me beyond under you, I'll cut the soft pockets that bleed over the rocky cliffs that you leave, over and not forget what feet are splitting threads of thunder over me. Questa versione bucolica, quasi fosse eseguita sull'arrivo di un ruscello, ce la regala Snowden Band di Atlanta. Oh, I see with my chest and sink and to the edges round you, and to the lakes and quarries that bring on all the ashes round you, round you, round you. Get a little closer, let it fold, caught up in my sternum and pull my little ribs around you, the wrongs of me be crowns over you. Get a little closer, let it fold, caught up in my sternum and pulled my little ribs around you, the wrongs of me be under you, I'll cut the soft pockets that made over the rocky cliffs that you made, to peer over and not forget what feet are splitting threads of thunder over me. Listen closely, closely to the floor, emitting all its graces through the pores. You make a fine shrine in me, you build a fine shrine in me. Fine Shrine, Purity Ring, che abbiamo visto esattamente 2 settimane fa a Milano. Pezzo contenuto, uno dei singoli contenuto nell'album d'esordio Shrines del 2012, che in questa versione di Snowden Band di Atlanta, guidata da Jordan Jeffries dal 2003, questa versione fatta invece nel 2013 dimostra come siano versatili i pezzi. In realtà non c'è solo una chiave in cui può essere eseguito un pezzo, ovviamente precedenza assoluta a chi l'ha concepito e l'ha fatto nel proprio stile, però è così rinfrescante, come termine che usano gli inglesi americani, refreshing, sentire una versione così distante dall'originale, folk acustica bucolica, dicevo, ma così accattivante, acchiappante, seducente come l'originale. E per associazione di idee, dai Purity Ring, passiamo ad un altro duo, lui-lei, che amiamo molto. E anche questi in chiave folk, sebbene il loro stile non sia elettronico come quello dei Purity Ring, sì, dream pop, molto a base di tastiere, organo e chitarra elettrica. Questa versione è proprio campestre, con questa marcetta resa tanto famosa da gruppi come Mumford & Sons o Of God and Monsters, che spesso ci infastidisce, ma in questa versione di Used to Be the Beach House ci piace molto. sono i Low Lives. Questa versione che assume così questa venatura così di nostalgia, di rimpianto, come era un tempo, Used to Be, pezzo contenuto nel meraviglioso Team Dream del 2010, a cui dedicammo una delle primissime puntate di Mighty FM nel marzo del 2010, appunto. Molto bello come anche hanno reso quest'ultima parte del pezzo, dove si ripete in continuazione una stessa frase e frase musicale. I Low Lives, la nuova band di Matt Pond, ex Matt Pond PA, sempre con lo stesso membro, il batterista Chris Hansen, perché anche Matt Pond PA erano di base loro due. Poi Wikipedia recita una serie di 20 past members, e questa appunto è una nuova band, si chiama Low Lives, e appena un mese fa hanno diffuso il loro SoundCloud questa bellissima cover dei Beach House. Adesso cambiamo stile e passiamo a un gruppo che io il nome l'ho letto veramente ogni 3x2 ultimamente, ma non ho mai ascoltato niente. Sono i Portugal.The Man, e non ho trovato invece la cosa che mi interessava di più, cioè ovvero da dove viene questo nome, considerando poi che è un gruppo di Wasilla in Alaska, in attività dal 2004, guidato da John Gourley, che insieme a Kieran J. Callinan, musicista australiano, ha fatto una cover di Tuesday, un pezzo che ha avuto molto successo, di I Love McConnell, rapper emergente della scena di Atlanta, pezzo che abbiamo sentito nella trasmissione dedicata alle 100 migliori tracce del 2014, e questo pezzo fortunatissimo anche per la partecipazione di Drake, e che ci piace molto, Tuesday, nella rilettura di Portugal The Man featuring Kieran J. Callinan. Get lit, fill the room up with some teens. One night off and this is it. Always working OT, overtime and out of town. Shit is crazy back home, it kills me that I'm not around. I think we're getting too deep. Shit, I'm talking might be. Ci sono state molte polemiche in seguito a questa cover, sempre per l'accusa di appropriazione da parte di bianchi di quello che invece è specificatamente appartenente alla black culture. E questa canzone che parla di andare al club a ballare di martedì, perché I have no motherfucking time to party on the weekend, perché devo lavorare. A club going up on a Tuesday. e sorvolando magari le giuste perplessità, perché si sa che comunque i pezzi dei rapper nascono proprio dalla loro realtà vera, reale, cruda, spesso. Diciamo che musicalmente ci piace l'originale, ci piace questa versione. Per dire, insomma, come certi pezzi nascono dalla realtà quotidiana. Un altro pezzo di I Love McConnell è I Don't Sell Molly No More, ovvero non vendo più estasi, quasi un'autodenuncia, perlomeno però appunto di azioni precedenti, rimanendo nella scena hip hop e nella scena dei rapper emergenti che hanno fatto veramente scalpore nella scena nel 2014. Un altro dei nomi di cui si legge molto è Young Thug, per un modo veramente molto molto particolare di usare la voce e le metriche, con un pezzo che sempre abbiamo sentito come i migliori pezzi del 2014, prendendo spunto dalla selezione che fa Pitchfork, ovvero Young Thug con Stoner, fatto anche questo da un gruppo di 5 bianchi anche abbastanza piazzati e barbuti, provenienti da Washington Heights, New York. Sono i Tribe Society, sono Rory, Gavin, Seth, Brad e Phil che hanno fatto questa versione a febbraio 2015 di Stoner, che invece è uscita, come dicevo, un anno prima e contenuta nell'album Thugga Thug. Il video è spassosissimo. Ecco, versione rock anche un po' duretto, mi piace molto anche questa versione. Si sa, Mighty FM suona solo musica che gli piace, e a noi della redazione questa versione di Stoner di Young Thug fatta dai Tribe Society piace. E voglio ascoltare cosa fanno questi Tribe Society, a parte un'immagine del sito, anche immagine, non so se è una copertina anche del loro canale YouTube, veramente disdicevole esteticamente, abbastanza orrenda. Ho visto dei commenti al video di questa cover, dove dice la mia Tribe Society sono la mia nuova ossessione, mi piace proprio ogni singolo pezzo che fanno, mi piace. Quindi vabbè, magari è un genere che magari a noi poi non ci acchiapperà più di tanto, però questa versione invece sì. E passiamo a Manila Killa, si chiama Manila Killa perché viene proprio da Manila, anche se adesso sta a Washington DC, insieme a Kids Waste. Ho trovato sul suo SoundCloud delle informazioni abbastanza oscure, non si capisce se forse è lo pseudonimo di tal Quentin Beauvoir di Amiens, ma penso che sia comunque un musicista francese. Chissà come si sono trovati per fare questa cover. Avete riconosciuto, l'abbiamo già sentita a Mighty FM, ovviamente nella versione originale, ma nella puntata ultima fatta di cover l'abbiamo sentita nella versione di una band che si chiama All We Are, e poi in Radio Kairos ogni tanto si sente nella versione jingle che ci ha registrato molto carinamente Dan Snyth, ovvero Caribou. E questa, beh, appunto, I Can Do Without You. Agosto-settembre 2015 questa cover, mentre sappiamo che l'originale è uscita più o meno un anno prima. Che in questa selezione i pezzi sono tutti abbastanza calmi, abbastanza avvolgenti, forse per andare a braccetto con questo desiderio di calore e tepore casalingo, per sfuggire alla morsa del gelo che imperversa fuori. Ma vabbè ragazzi, è solo novembre, cioè mettiamocela via, arriverà l'inverno, farà freddo, sarà il gelo cosmico, soprattutto qui a Bologna, come deve essere. Sempre casualmente, perché volevo mettere verso la fine, insomma, una delle cover più recenti, sia anche come amore musicale che come pubblicazione, appena una settimana fa. I can't feel my face when I'm with you. I Can Feel My Face, canzone dell'estate di The Weeknd, contenuta in Beauty Behind Madness, uscita proprio l'8 giugno della sera, adesso ve la beccate, fatta dalla voce inconfondibile oramai di Lorelei Rodriguez, ovvero Empress Off, in questa versione piano jazzata, fatta per l'emittente radio Sirius XMU, esattamente come dicevo una settimana fa, sempre dal vivo. Canzone, quella di The Weeknd, veramente piacevole, che ti resta in testa, mi piace molto. Abel Tesfaye, canadese, cosa che invece non sapevo, ma che sono convinta comunque che sia stata costruita su Hideaway di Kesha, perché è esattamente la stessa struttura della serie, quella lì ha avuto un grandissimo successo. Facciamo una versione così un po' ruffiana, molto più facilona, insomma, dopo il duetto con Ariana Grande, molto più facilone di quello che The Weeknd aveva fatto fino ad allora. Bravissima Lorelei in tutto quello che fa, come la cover di Katy Perry. Adesso la cover più mossa della trasmissione, che abbiamo scelto di mettere alla fine. Dell'inconfondibile Save a Prayer dei Duran Duran, Rio 1982, che avrei presentato come una chicca, come cover insomma, e che invece sarebbe stato meglio che rimanesse magari misconosciuta come pezzo fatto dagli Eagles of Death Metal, ma che invece appunto sappiamo ha avuto una rilevanza, una notorietà non voluta. Versione contenuta nell'album Zipper Down, uscito il 2 ottobre 2015, anticipato da un singolo, Complexity, avuto molto successo nelle radio. E che anche indipendentemente da ciò che l'ha resa più conosciuta, avremmo comunque preso in considerazione. Insomma, una band di garage rock che attinge anche dal country e non certamente death metal né heavy metal né tutte le cagate che hanno detto in televisione, che rifà una versione Duran Duran e che poi hanno anche eseguita dal vivo in un programma televisivo, sicuramente non ci sarebbe sfuggita. riguardo insomma all'immane tragedia del Bataclan, l'unica cosa che mi sento di dire è che se si vive in certe metropoli, magari quando prendi la metropolitana oppure quando vai in una stazione, in aeroporto, magari il pensiero di essere in un obiettivo sensibile potenzialmente magari ce l'hai, ma non quando vai a sentire una band ad un concerto, che è stata poi l'attività che io ho svolto per 3-4 giorni di quella settimana. E anche la sera stessa eravamo a vedere i Durante, era al Bronson, cercavamo di goderci stupidamente forse il concerto, mentre c'era Jonathan Clancy che mi dava e ci dava le notizie di quello che stava succedendo. Save a Prayer rimane una bellissima cover fatta dagli Eagles of Death Metal, e con questo Claudia Mighty Mau per questa puntata ennesima dedicata alle cover vi saluta. Ciao, alla prossima puntata.